Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno a tutti cari ascoltatori, 7:35 minuti, una nuova puntata di Si può fare a inizio il buongiorno del weekend su Radio 24. E vi do subito i nostri contatti se volete chiacchierare con noi. Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account di Twitter è @ Si può fare 24 e poi 349-238-6666 in attesa dell'apertura del numero verde, quando potrete intervenire in diretta dopo questa veloce rassegna stampa, una lettura dei giornali di oggi che ci accompagna verso il GR delle 8. Iniziamo subito, vai! Giornali di oggi che naturalmente sono pieni ancora di Trump e delle conseguenze dell'elezione del presidente americano, soprattutto dopo le parole del presidente della Commissione europea Juncker e quindi diciamo di questa rapporti freddi che cominciano tra l'Europa e la nuova America di Trump, rapporti freddi che nascono da un ventilato, insomma, disinteresse del neopresidente americano, ancora insomma non è in carica, ma da quando lo sarà, verso temi di politica estera. In generale si annuncia un'America meno presente sullo scacchiere internazionale. Per alcuni è un bene, perché si tratta di fare meno guerre sostanzialmente in giro per il mondo, perché sappiamo che l'America è stata ed è ancora il cane da guardia di molte situazioni in giro per il mondo. Per altri un fatto invece negativo, perché si tratta di un disimpegno in zone dove c'è bisogno di far sentire la presenza occidentale, eccetera, eccetera, eccetera, sapete tutti benissimo, e questo riguarda anche l'Europa. Questi, diciamo, sono i principali argomenti. Poi ci sono spunti per quanto riguarda la manovra, con manovra economica italiana, con quasi 5.000 emendamenti alla legge di bilancio, e quindi come e perché potrebbe cambiare la manovra economica. Cominciamo con i titoli dei giornali sulla questione di Trump. Il Corriere: Trump modera la linea sulle riforme, potrei non cancellare parti dell'Obamacare, dice. E da Bruxelles arriva l'affondo di Juncker, di cui dicevamo poco fa. Stati Uniti, prima intervista dopo la vittoria, la transizione affidata al vice Pence, però continuano anche le proteste, ci sono stati 200 arresti. La ricetta di Trump spaventa l'Unione Europea, scrive La Stampa. Europa Trump, alta tensione, è il titolo di Repubblica. Il Sole 24 Ore sceglie invece come titolo le ricadute economiche della situazione che va delineandosi in America. Tassi BTP oltre il 2%, sale lo spread, le attese di aumento dell'inflazione e dei tassi Fed dopo l'elezione di Trump spingono i bond al rialzo, rendimenti ai massimi dal luglio 2015, il divario con il Bund supera quota 170. C'è chi, come il giornale, scrive, si occupa, ma il giornale è anche Libero, effetto Trump sull'Italia. Per Libero: i partiti si spappolano, Toti e Salvini, fan del presidente americano, vanno in piazza a Firenze insieme. Parisi invece, con l'ok di Silvio, da un'altra parte. Anche il PD non sta bene, in vista una scissione dopo il referendum, solo Grillo può approfittarne, ma gli manca la gente giusta. Per il giornale invece, i nemici della democrazia non sanno perdere, sono quelli che sostanzialmente non sono contenti per l'elezione di Trump e scalpitano, e in qualche modo c'è chi addirittura è arrivato a dire che bisogna cambiare il suffragio universale per non far votare chi? Gli elettori di Trump, che questa è una teoria originale, ma già, anche tutto sommato abbastanza inquietante, non scherziamo. Comunque, vabbè, a parte questo, il mio giudizio su questa presa di posizione, ma nemici della democrazia non sanno perdere. Chi sono? I potenti si rivoltano contro la vittoria di Trump, dal magnate Soros che paga i giovani per protestare all'euroburocrate Juncker fino a Papa Francesco. Fibrillazioni Lega Parisi, questo è un po' anche l'argomento di Libero. Berlusconi dice siamo uniti. A proposito di Berlusconi, c'è un'intervista a Berlusconi sul Corriere della Sera che è centrata proprio anche sulla questione di Trump. Io, il presidente e il mio no al referendum. Andiamo a leggere, ma sì, dai, leggiamo subito questa intervista a Berlusconi, che cioè, su Trump non si era ancora espresso. Analogie tra me e Trump, ma io non sono alla destra, dice. Da Obama un mondo instabile è l'eredità che in qualche modo Trump è chiamato a cambiare e a migliorare. E poi vabbè, insomma, parlerà anche di cose italiane su cui invece si è espresso già altre volte, ma cominciamo da Trump. Sono convinto che Hillary Clinton, dice Berlusconi, intervistato dal Corriere, abbia pagato il suo essere un elemento di continuità con gli 8 anni di Obama e dell'establishment di Washington. Obama ha commesso molti errori, specie in politica internazionale, dall'incoraggiamento delle cosiddette primavere arabe all'inefficace contrasto dell'integralismo islamico, fino alla controproducente tensione con la Russia. Ha indebolito la posizione dell'America, ha reso il mondo un luogo più instabile e pericoloso. Anche sul piano interno non credo che gli americani, soprattutto la classe media, abbiano avuto vantaggi da una politica tendenzialmente statalista. Poi il paragone tra lei e Trump è corretto? Beh, dice Berlusconi, alcune analogie, cioè l'Italia in questi giorni si chiacchiera molto del fatto che è l'America per una volta che ricopia quello che è stato fatto in Italia più di 20 anni fa a questo punto, con un imprenditore che diventa leader politico, un grande imprenditore. Ma qui arrivano le differenze, attenzione, perché Berlusconi ci tiene a distinguere e dice alcune analogie sono evidenti, anche se la mia storia di imprenditore è molto diversa da quella di Trump. Non va oltre, non dice molto di più, ma insomma ci sono ovviamente delle diversità. Trump è figlio di un imprenditore che prima di lui ha costruito un impero immobiliare che poi lui ha gestito sostanzialmente occupandosi di grandi affari immobiliari a New York, ma anche di altro. Poi è stato un personaggio della televisione con una serie di 10 anni di The Apprentice, con cui è diventato anche un personaggio. Berlusconi è uno che ha costruito dal nulla un grande impero economico, per alcuni in modo discutibile, per altri no, ma insomma si è costruito realmente da solo. Non lo dice Berlusconi, ma è questo il suo riferimento. Poi va avanti e dice: Trump non ho mai avuto occasione di conoscerlo, anche lui è un imprenditore che a un punto della sua vita ha deciso di dedicare le sue capacità e le energie al suo paese. È stato votato da tutti gli americani stanchi di una politica vecchia, chiusa, incapace di ascoltare e capire. Una politica che ha commesso l'errore tipico delle sinistre di tutto il mondo, quello di pensare che il politicamente corretto sia il modo di stare vicino ai bisogni della gente, senza comprendere che i veri deboli sono i cittadini vessati dallo Stato, dalle tasse, dalla burocrazia, dall'immigrazione incontrollata, dalla disoccupazione, dal pericolo terrorista. E poi un'altra differenza è questa: io non interpreto la destra, dice Berlusconi, rappresento un centro liberale e popolare nel quale sono confluite le migliori tradizioni del nostro paese, da quella cattolica a quella del socialismo riformista, da quella del liberalismo a quella della destra democratica responsabile. Quindi a dire Trump è di destra, io sono di centro, e questa è un'altra differenza. Poi sul piano delle politiche che si annunciano da parte di Trump è apprezzabile la politica fiscale annunciata, il taglio delle tasse, così come l'accento posto sul controllo dell'immigrazione e della legalità. Non sono invece condivisibili le scelte protezionistiche e le tentazioni isolazionistiche che ha espresso. Cioè l'argomento da cui siamo partiti leggendo i titoli dei giornali di oggi, la questione dell'isolazionismo di Trump, a cui dedica pure Angelo Panebianco un commento facendo un confronto con Ronald Reagan, ma dice è quanto di più sbagliato. Ronald Reagan colui che ricostruì la potenza dell'America dopo il Vietnam, e il Watergate, che mise con le spalle al muro l'Unione Sovietica, favorendo così indirettamente l'ascesa di Gorbaciov e del suo gruppo, e che restituì l'ottimismo e la fiducia in se stesso e nei propri principi liberali, non solo al suo paese ma al mondo occidentale nel suo insieme. Quello che ci aspetta invece con Trump è molto diverso. Trump esprime, scrive Pane Bianco, il desiderio di tornare a quella tradizione isolazionista che prevalse nell'America tra le due guerre mondiali, la volontà di porre termine alla grande anomalia che è stata, rispetto alla storia americana passata, la partecipazione permanente agli affari mondiali dopo il 1945. E questo, vabbè, diciamo così si chiude un po' il cerchio sulla questione Trump. Ci fermiamo per una breve pausa sul traffico, torniamo tra un attimo. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, stavamo leggendo di nuovo, ben ritrovati, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Stavamo sui giornali di oggi leggendo soprattutto di Trump, del trumpismo, delle conseguenze dell'elezione del presidente americano e insomma dei rapporti con l'Europa. I titoli dei giornali di oggi sono quasi tutti dedicati a questo, insomma alla frase di Trump, scusate, di Juncker, che ieri ha detto ci è andato giù abbastanza pesante, con Trump perderemo 2 anni, il tempo che faccia il giro del mondo che non conosce, rischiamo contraccolpi, ha detto Juncker, negli equilibri intercontinentali, nei suoi fondamenti. Per chiudere questa pagina, volevo vedere se la trovo, c'è un'intervista di un altro punto di vista, abbiamo letto Berlusconi, c'è Saviano intervistato dalla Stampa, perché tra l'altro oggi a Napoli viene presentato il suo nuovo libro, La paranza dei bambini, che si occupa del ruolo dei bambini nella criminalità organizzata, credo, magari anche di altro, ma insomma questo è il titolo, e parla anche di Trump, però Saviano. Cominciamo però, chi sono i bambini della paranza? Così spieghiamo anche il libro. Sono veri e propri soldati bambini con armi da guerra, spietati, che giocano in prima persona, sono diventati protagonisti assoluti del territorio. I grandi boss hanno fornito i mezzi per gestire le piazze e i giovani se le sono prese con la ferocia e la voracità, anche se alla fine si illudono, perché i veri capi, quelli che tirano le fila, sono sempre i vecchi delle famiglie. Diciamo, verità e fiction quasi si confondono. A chi ha seguito la fiction televisiva Gomorra, che su questo genere di realtà ha costruito tutto un immaginario che insomma è tratto dal libro di Saviano, ma insomma non solo, anche dalle cronache, quindi sicuramente degli elementi di verità ci devono essere. Ma torniamo a Trump, perché Saviano vive negli Stati Uniti da tempo. Che impressioni ha avuto di questa elezione? C'è una middle class sempre più impoverita, una classe media, dice Saviano, e impaurita, che ama il linguaggio di Trump, diretto e violento. Magari non ne condivide il contenuto, ma la forma prevale sul contenuto. Lui usa frasi sgradevoli, insultanti, razziste, sessiste, ma chi le ascolta le percepisce per vere, genuine. La maleducazione, dice Saviano, è il nuovo grande lascia passare. La donna del Texas che sente aggredire un'altra donna magari non lo condivide, ma in un angolo della sua mente pensa: però è sincero. Ecco, dice Saviano, oggi il paradosso è che la buona educazione viene vissuta come falsa. La buona educazione viene vissuta come un trucco usato dal potere per ingannare i più poveri. E questo insomma è anche un punto di vista. Poi diciamo un filo rosso che unisce i bambini della paranza con invece appunto gli elettori americani delusi da Obama e che hanno votato per Trump. Ovvio che ci sono delle differenze, dice Saviano, specificità che sarebbe sbagliato assimilare, ma il dato comune sono i dimenticati, quelli messi ai margini. Intere parti sociali vengono fatte a brandelli, lasciate fuori da tutto, dal lavoro, dall'istruzione, dalla vita, insomma, nel nome di un progresso sempre più veloce. La verità è che sono tornate le caste. I nostri genitori lottavano per salire di un gradino della scala sociale. Si sarebbero potuti comprare un appartamento e mandare i figli a scuola. Adesso non è più così. Sa già in partenza che non ce la puoi fare. Non parlo solo dei proletari, ma anche dei borghesi che vedono ormai impossibile un futuro migliore per sé e per i propri figli. Dice ancora Saviano, negli ultimi tempi mi ha colpito un dato, guardate il censo degli scrittori americani più famosi, sono quasi tutti ricchi o molto ricchi. Questo è un segnale, significa che a interi strati della popolazione sono chiuse le porte dei lavori intellettuali. E vabbè, e questo è Saviano che mette insieme Trump con Napoli. Che altro? Tanto altro naturalmente sui giornali. Ah, c'è una piccola polemicuzza che riguarda le bandiere, a proposito dell'Europa, le bandiere europee che sono sparite da dietro Renzi quando fa le conferenze stampa a Palazzo Chigi come Presidente del Consiglio, ma anche quando, come è successo credo fosse ieri, due giorni fa, quando ha fatto il classico intervento Matteo Risponde live su Facebook, e si è presentato con 5 bandiere tricolori dell'Italia senza alcuna bandiera dell'Europa come era invece prima. E vabbè, qui c'è la piccola polemica con Romano Prodi che insomma va avanti da tempo, di sapori tra Renzi e Prodi, chi se ne frega direte anche voi, può darsi, ma era giusto la curiosità. Per me un colpo al cuore, dice, è sparita la bandiera europea, e questo appunto non va giù a Prodi, che dice per me un colpo al cuore. Dagli altri giornali, prima di chiudere, altri argomenti, abbiamo letto Libero, Il Giornale, che altro? C'è per esempio un interessante punto di vista del Fatto Quotidiano sul fatto che Renzi compra gli italiani all'estero per 160 milioni di euro dal governo, una pioggia di aiuti a enti e associazioni che devono spingere il sì tra i residenti fuori dell'Italia, decisivi per la vittoria il 4 dicembre. Quindi si annuncia una pioggia di finanziamenti. Di che tipo? Sentite qua, è istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, già lievitati a 25 per il 2017, 30 per il 2018, 50 per il 2019-2020 per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Vabbè, insomma, facciamola breve, 160 milioni di euro in 4 anni da dare a tutta una serie di istituti italiani di cultura, istituzioni scolastiche italiane all'estero, enti gestori, eccetera, eccetera. Una rete che arriva a coprire 250 città nel mondo e che per il Fatto Quotidiano altri non è che una sorta di mancia importante che serve per rinforzare la convinzione degli italiani all'estero nella bontà di questo governo e quindi di spingerli a votare. Il giornale invece annuncia guai per il ministro dell'interno Alfano, che avrebbe fatto un viaggio privato sull'elicottero destinato ai migranti da Trapani a Porto Empedocle. Il ministro Alfano non perde occasione per vantarsi dei salvataggi in mare di migranti da parte dell'Italia, ma, dice il giornale, approfitta dei mezzi che dovrebbero essere dedicati a questa missione per i propri spostamenti, e vedremo se questa denuncia avrà un seguito. Ci fermiamo, c'è il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo Non si può fare. Ciao, a dopo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Stufe e caldaie Termo Rossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Under the lights when everything goes, nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do. Eccoci qua, buongiorno a tutti, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Buongiorno da Carlo Gabardini. Allora, 800 24 00 24, vi aspettiamo oggi per stare con noi questa mattina fino alle 10. Carlo, Milano Monterosa, oggi è appena spuntato il sole, siamo felicissimi di dare questa notizia. Sempre c'è ottimismo. Parliamo come sempre solo di Milano Monterosa, nel senso che magari già semplicemente in via Marghera invece è nuvolo. E piove, sta piovendo. A proposito di ottimismo, beh, la voglio dare subito questa notizia di questa settimana, è una piccola notizia, ma ne parleremo magari in un'altra puntata, non oggi. Perché a noi sta a cuore. Ti ricordi quando Pompei veniva giù tutto, cadeva a pezzi? Superati 3 milioni di visitatori quest'anno e non siamo ancora alla fine dell'anno, è un record per Pompei. Insomma, le cose girano un po' meglio per uno dei siti, insomma, più importanti al mondo. Ne siamo contentissimi, anche perché spesso li abbiamo sentiti. Sì. E proprio per parlare di questo, di capire come razionalizzare, come riuscire a far venire più persone, come far sì che poi il biglietto serva anche per migliorare il sito. E il sovrintendente Osanna, che credo sia a San Pietroburgo, l'abbiamo cercato, ma insomma non era disponibile per stare con noi nel weekend di mattina, ma prima o poi lo sentiremo sicuramente. 800 24 00 24, ascoltatori, vi aspettiamo anche per giocare con noi come ogni weekend, i biglietti della mostra di Escher a Palazzo Reale. Poi ci sarà Basquiat, cioè abbiamo già Basquiat, che non è a Palazzo Reale ma è al MUDEC, sempre di là. L'hai detto che sembrava qua ai microfoni con noi e sarebbe ovviamente bellissimo, sarebbe ma purtroppo non è possibile. Sarebbe un miracolo, il grande writer, artista americano. Oggi vogliamo in qualche modo salutare anche noi, partecipare, onorare quella grande figura che ci ha lasciato, di Umberto Veronesi. Medico, scienziato, persona, vi vogliamo chiedere, insomma, perché stamattina parlando con Carlo, possiamo dirlo? Ma possiamo certo dirlo? Che possiamo dirlo. Carlo è arrivato dicendo: sai che c'è, ho ripreso la sigaretta elettronica, ho smesso di fumare. Io fumo 60 sigarette al giorno, quindi sono 4 giorni che non fumo neanche una sigaretta, sono felicissimo. È fantastico. Allora abbiamo pensato, tanto complimenti, perché non chiediamo agli ascoltatori di raccontarci quegli sforzi che stanno facendo per migliorare la loro qualità della vita, quelle cose di cui Veronesi sarebbe stato orgoglioso di noi, cioè tipo smesso di fumare, ho cominciato a correre anche se ho 60 anni, non ho mai fatto un metro, tutte queste cose qua. Vero, mi sembra un'ottima domanda, è una casualità che proprio in questa settimana, sì. Però ne sono molto contento, anche perché l'altro ieri sono andato in farmacia per prendere in realtà un'altra cosa, parlavo di sigarette elettroniche e il farmacista mi ha detto: prenda questa sigaretta elettronica che non ha nessuna nicotina ed è quella che consigliava Veronesi. Quindi anche da quello, io in realtà ammetto, al momento sono con una sigaretta elettronica che contiene nicotina, quindi in realtà un po' male continua a farlo, ma non contiene la combustione e quindi diciamo sono meno interessato l'infarto va bene, il tumore mi fa molta paura. Era molto indulgente Veronesi, Emma Bonino ha raccontato di quando, insomma, avendo avuto dei colloqui con lui, che credo che l'abbia anche sostanzialmente curata, lui ha detto: ma sì, fuma 10 sigarette al giorno, te le concedo, se ti aiutano a stare meglio te le concedo. Quindi anche sui nostri vizi era indulgente, però allo stesso tempo è giusto impegnarsi per migliorare il proprio stile di vita e noi oggi siamo qua per invogliarvi, per ma anche tenervi... per prendere dei consigli, perché molto probabilmente anche voi ascoltatori avete dei consigli da darci, di buone pratiche che fate voi in linea con il pensiero di Veronese, che magari possiamo iniziare a fare anche noi. 800 24 00 24 per davvero e non essere più schiavi perlomeno di un'idea come di un'altra, di un mistero. Sembra che non sia possibile dimenticarsi di sé e giudicandoci ognuno con gli altri convincersi che se non lo sai. Allora, Vasco Rossi è stato tra i primi grandi artisti questa settimana, perché poi, a parte l'elezione di Trump, l'altra grande notizia della settimana è questa questione dei biglietti nel mercato secondario per i concerti, Vasco Rossi. Esatto, le biglietti che dovrebbero costare 80 euro improvvisamente ne costano 1000. Sì, 200, 300 euro è una cosa pazzesca. Questa cosa è venuta fuori in realtà per dei ricorsi fatti da associazioni di consumatori, poi hanno fatto un'inchiesta alle Iene, a quel punto il grande pubblico si è interessato alla faccenda, allora anche Vasco Rossi, Tiziano Ferro, Mengoni ha detto ok, allora prendiamo le distanze da chi? Da Live Nation, che sì, è la società che organizza gli eventi, rivende i biglietti teoricamente in esclusiva a Ticket One. Poi succede quello che andremo a spiegare adesso. Esatto, e soprattutto hanno anche reagito, perché in questa inchiesta delle Iene la D di Live Nation ha detto i soldi tornano agli artisti, quindi gli artisti hanno detto no, momento, nel senso che va bene tutto, ma se state addirittura dicendo che questi soldi qua noi, che a noi in realtà ci danneggia in qualche modo, in realtà li riprendiamo noi, capiamo cosa sta succedendo. C'è una specie di scarica barile, ci spiegherà tutto uno degli autori del ricorso che in realtà ha originato il tutto, che è il segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona. Buongiorno. Eccoci, buongiorno a voi. Buongiorno. Eccoci qua, Dona. Allora, voi appunto avete fatto il ricorso, adesso ce ne parlerà, ci spiegherà bene, però prima proviamo a spiegare come funziona questo mercato secondario dei biglietti, perché noi abbiamo un mercato principale che è l'esclusiva di Ticket One, che prende i biglietti da chi organizza l'evento. Poi però succede qualche cosa. Ci spiega cosa? Ce l'hanno spiegato i consumatori riempiendo i nostri sportelli di reclami. Succede che pochissimi istanti dopo la messa in vendita dei biglietti sulla piattaforma di Ticket One, questi sono già spariti. Allora inizialmente i consumatori temevano semplicemente di essere arrivati in ritardo. Succede, c'è una grandissima domanda, chiaramente i biglietti sono in un numero limitato, ma la cosa ci ha insospettito perché ci siamo accorti che non passava qualche ora, ma veramente istanti di secondo. Cioè pochi secondi, gente che si metteva lì anche prima cioè mettiamo che da oggi a mezzogiorno ci sono i biglietti, famoso caso del Coldplay, mi metto lì 10 minuti prima, però appena comincio a operare mi rendo conto che non riesco a far nulla. Secondo alcune testimonianze anche molto prima, e mi spiego. Alcuni circuiti di carte di credito offrono delle anteprime ai titolari. Beh, è successo, alcuni testimoni ci hanno rivelato che anche avendo queste esclusive, neppure prima della messa in vendita i biglietti erano disponibili. È chiaro che c'era qualcosa che non andava. La nostra segnalazione all'antitrust, che risale alla primavera scorsa, si focalizza proprio su questo. Cioè la domanda che noi abbiamo fatto all'autorità che presiede alle pratiche commerciali scorrette è questa: è possibile che un operatore di questo livello non faccia nulla per evitare che gli acquisti siano fatti in modo automatico? Perché il nostro sospetto era che questi biglietti fossero raggranellati dai cosiddetti robot, quei sistemi informatici, gli spider, software, cosiddetti spider o cose spider, esattamente, che automaticamente fanno degli acquisti, immettono dei numeri di carte di credito con l'attenzione evidentemente di aggirare il limite massimo di vendita, che è di 4 tagliandi, e quindi fanno incetta di grandissime quantità di ticket a spese degli utenti. Quindi gli utenti avevano come concorrente dall'altra parte non degli altri utenti ma dei motori automatici che in pochi secondi facevano incetta di biglietti, ecco. Quindi era una di gara concorrenza sleale, esatto. Di concorrenza sleale sulla quale abbiamo chiesto all'autorità di fare chiarezza. È chiaro che se invece oltre a questo meccanismo ci siano addirittura dei canali, diciamo così, delle deviazioni dal mercato ordinario a spese dei consumatori, perché poi ricordiamo, per rispondere alla tua domanda, si chiama secondary ticketing perché poi questi biglietti chiaramente tornano sul mercato di consumo dei cittadini, ma a prezzi, come dicevate voi stessi, maggiorati di quanto? Anche di 10 volte. Abbiamo 10 volte, è pazzesco. E soprattutto la domanda da capire è chi becca questi soldi, nel senso che sono dei bagarini, come si suol dire, che singolarmente fanno questa operazione per arricchirsi illegalmente è un conto, se questi soldi qua invece tornano a chi ha stampato i biglietti evidentemente è una truffa legalizzata. È proprio così, qualcuno ha sospettato, avete citato l'inchiesta delle Iene, che questi denari tornassero in un circuito, diciamo così, di diritti o gli agenti, o persino qualcuno ha immaginato che gli artisti potessero scegliere questo o quel quell'agenzia proprio in forza dei ritorni. Poi se loro questi ritorni in termini economici, chiaramente immagino che all'artista non si dica questa è una quota percentuale del prezzo da bagarino, ma tornavano cifre talmente alte forse da farlo presumere. Sì, esatto, qualche domanda se la potevano magari anche perché fare, lo stesso David Zard, che è un grandissimo organizzatore, ha detto se si promette il 100% dei compensi dei biglietti agli artisti, evidentemente qualcuno ci guadagna da un'altra parte, perché non è che io che vendo i biglietti lo faccio per hobby e ti consegno tutto il malloppo, evidentemente io li vendo al doppio e il mio guadagno è quel doppio lì. È chiaro, il tema è esattamente questo. Io per dare una buona notizia in stile con il vostro programma direi che non è il secondary ticketing in realtà ad essere in sé illegale, perché sul banco degli imputati è finita questa situazione, anzi ho sentito qualche dichiarazione di qualche organizzatore che dice diciamo basta il secondary ticketing, è una rovina per il nostro sistema. È il secondary ticketing illegale ad essere una rovina. E come si distingue uno dall'altro? Allora, sono dei soggetti professionali che non sono dei bagarini nascosti chissà dove, che fanno rivendita di biglietti. La loro legittimità è data semplicemente da un fattore. Se io rivendo un biglietto ad un prezzo superiore, devo dare un valore aggiunto. Mi spiego, se lo rivendo a 10 volte il suo prezzo è comunque qualcosa di illegale. Se maggioro di una percentuale inferiore, ma do dei servizi aggiuntivi. Ad esempio, ci sono delle società che offrono, grazie alla realtà aumentata, un servizio molto utile per i consumatori, cioè quello di far inquadrare dal proprio telefonino la visuale che io avrei esattamente dal mio posto. Noi Però questi sono casi, diciamo, si riesce a fare una percentuale, quanto di questo secondary ticketing ha queste caratteristiche e quanto invece è semplicemente bagarinaggio puro che rilancia sul prezzo del biglietto solo perché i biglietti sono pochi, sono merce rara e quindi a quel punto devi comprarli da loro. Cioè si può fare oggi il fenomeno è un fenomeno tutto scorretto e tutto in danno dei consumatori, ma quei soggetti che stanno entrando in questo mercato e che offrono, oltre al servizio che vi dicevo, ad esempio un'assicurazione, immaginate voi quanto potrebbe essere utile sull'annullamento dell'evento, cioè se annulla l'evento per maltempo, oggi noi tutti sappiamo che rimaniamo con quel biglietto, costoso o non costoso, in mano, e con il rischio questo di non, sarebbe un vero mercato secondario, cioè io c'è il biglietto che secondario. È il mercato primario e poi c'è un biglietto con dei servizi che io pago di più, però questo il diciamo, biglietto assicurato, questo è l'ipotesi su cui si sta lavorando, che voi chiedete, ecco, per dare un'altra buona notizia se possibile, il vostro ricorso che quindi è partito prima di queste inchieste, anche fra l'altro partite dalla magistratura proprio in questi giorni, a che punto è? Pensate di avere una risposta positiva, qualche cosa? Noi speriamo che arrivi entro la fine dell'anno. L'autorità antitrust sta indagando su quel profilo che in particolare era sulla presenza sul sito di Ticket One di quei sistemi che conosciamo per riconoscere l'umano dallo spider, e cioè il CAPTCHA ad esempio, no? Quando chiede di inserire quella stringa, quelle lettere tutte distorte, perché soltanto l'occhio umano e non l'occhio di un robot possono leggere. Ecco, basterebbe mettere sul sito quello strumento per distinguere l'acquisto di un consumatore da quello di una macchina. A quel punto, forse per questo Ticket One noi sospettiamo non l'abbia messo online, a quel punto se alcuni biglietti non vengono neppure messi sulla piattaforma, ma girano, diciamo così, sotto banco verso altri organizzatori, quello emergerebbe chiaramente. Carlo. La cosa che mi chiedo è come mai è così difficile risalire a chi prende i soldi, nel senso che nel momento in cui il caso dei Coldplay abbiamo visto che nessuno è riuscito a comprare il biglietto perché entro un secondo erano tutti venduti i biglietti. Tutti i biglietti sono stati venduti a prezzo enormemente maggiorato. A chi vanno quei soldi? Come mai è così difficile capirlo? È una bella domanda, perché in effetti non vengono venduti diciamo così negli angoli delle strade, ma vengono venduti su altri siti, uno di questi è Via Gogo, ma ce ne sono tantissimi, quindi il nostro auspicio è che la magistratura, che ha anche poteri di indagine molto efficaci, semplicemente verifichi, chiarisca il giro dei soldi, anche molto banalmente, certo, dove vengono poi girati. Anche perché bisogna dire che questa cosa va estesa, io credo, è una domanda che ti faccio, Massimiliano Dona, in quanto segretario generale dei consumatori, concerti, sì, ma altri spettacoli, partite di calcio, partite di basket, forse il calcio no, ha delle regole. No, anche il calcio, anche il calcio. È vero? Sì, sì, e anche il calcio, soprattutto sulle partite internazionali, chiaramente. E quindi capite che qua la questione ma se ne verrà capo? Se ne verrà capo? Perché l'altra domanda che mi piacerebbe fare è capire come mai Ticket One, che assiste al fenomeno che in un secondo tutti i suoi biglietti vengono venduti e tutti si lamentano perché nessuno è riuscito a comprarlo al prezzo normale, come mai non abbia mai fatto una denuncia? Carlo, se ne verrà a capo e ti spiego che cosa accade nel mondo digitale. Sì. Nel mondo digitale tutti noi crediamo che siano normali alcune situazioni. Per cui quando il primo consumatore a marzo ci ha scritto, mi sembra per Springsteen, dicendo diamine, non sono riuscito a prendere il biglietto e oggi l'ho trovato a 1500 euro. Anche nel nostro ufficio abbiamo detto ma sarai arrivato tardi. Quando in una settimana ci sono arrivati 700 reclami, ecco, è chiaro che la cosa non era più normale, perché non è semplicemente il consumatore deluso. Ora, il mondo digitale spesso, ma sono molte le situazioni, ci costringe a percorsi che ci sembrano ordinari, un po' perché siamo più superficiali, un po' perché siamo più distratti. Il fatto di aver individuato quella che ci sembrava una lacuna, io vi farei vedere la risposta che ci ha dato Ticket One alla nostra prima richiesta. No, ma lei sa che per la Cassazione il venditore non è responsabile di eventuale bagarinaggio. Certo, il venditore tradizionale, ma siccome tu vendi online, tu puoi tracciare sul digitale molto certo. Meglio che non ma per esempio Massimiliano, reale. Un ascoltatore dice perché non inserire un obbligo nell'acquisto di dichiarare il codice fiscale, per esempio, no? Potrebbe essere un modo, ma anche banalmente quello che dicevate voi, cioè quei codicilli di lettere e numeri captcha, che si inseri, ecco, il fatto che Ticket One non abbia consentito a fare questo, beh, insomma, mi sembra una dichiarazione di intenti abbastanza chiara, non vogliono collaborare al momento, probabilmente fiscale potrebbe aiutarci, ma gli spider possono anche generarne e produrne. No, voi avrete letto che ieri, grazie a tutto questo baccano che abbiamo sollevato, è uscita la proposta di inserire nella legge di stabilità una norma anti-bagarinaggio online. Ora anche qui certo. Si parla di sanzioni, mi sembra, da 30.000 a 180.000. Noi sì. Abbiamo già dichiarato che se fossero queste il lucro di queste aziende è di gran lunga superiore a quegli importi. Quindi forse andrebbe, ironicamente ma non troppo, abbiamo detto che quella sanzione andrebbe bene se fosse per ogni tagliando venduto. Però questo è il segnale che qualcosa si sta muovendo. Ma anche perché si ha la sensazione che sia in realtà più perché il governo, ovviamente perdendo anche le tasse, in questo modo recupera perlomeno le tasse, ma il cittadino continua a pagare il biglietto 1000 euro. No, la sanzione dovrebbe dissuadere dalla vendita scorretta. Il punto è che insomma, mi sembra che l'opinione pubblica sia sensibilizzata. Fino a ieri non ci preoccupavamo di questo tema. Oggi abbiamo un'attenzione in più, tutta la filiera della musica live, che sarà anche fatta di persone oneste chiaramente, si sta mobilitando. Io credo che le cose cambieranno ancora prima delle sanzioni. Speriamo, noi siamo con voi, anzi vi ringraziamo per essere stati i primi a sollevare questo polverone, questa questione del mercato secondario dei biglietti dei concerti. Grazie Massimiliano Dona. Grazie mille e sono anche molto contento del fatto che è stato ricordato la questione di dire è arrivato un reclamo, ovviamente ci sembrava semplicemente un caso singolo, poi i reclami sono diventati 700. Quindi questo è importante perché quando uno è a casa davanti a un computer pensa che fare reclamo non serve assolutamente a niente, invece, che mandi una mail, invece è utile. Poi serve anche il servizio delle Iene, naturalmente, perché amplifica e mette gli artisti di fronte al fatto che milioni di persone sanno di quella notizia e sono tutti potenziali, insomma, scontenti dei loro concerti, e quindi le cose così non vanno. 800 24 00 24 vi ha in qualche modo convinto le parole del segretario dell'Unione Nazionale Consumatori su questa vicenda. Vi aspettiamo tra poco e vi aspettiamo anche per raccontarci le cose, le vostre buone pratiche che avrebbero reso orgoglioso Umberto Veronesi di voi. Avete smesso di fumare, vi siete messi a correre, mangiate meglio, salutate di più, per esempio, anche. A tra poco. Tecnologie e logistica di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta. Si può fare, si può fare, si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buon sabato a tutti. Cominciamo con l'800240024 tra poco, però, perché in pratica o possiamo farla subito la telefonata, facciamola veloce, vai Giancarlo da Torino, perché poi in realtà con questi blocchi pubblicitari siamo già alle informazioni sul traffico. Perfetto. Quindi tra poco arrivano, se siete in macchina e avete bisogno di sapere come vanno le cose, tra poco ve lo diciamo. Giancarlo, buongiorno da Torino. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Buongiorno. Approfitto di questo argomento per festeggiare una data che per me è molto importante. Il 25 novembre festeggio esattamente un anno in cui ho smesso di fumare. Sono molto contento, anche perché spero di festeggiare il secondo compleanno insieme a te. La mia data è l'8 novembre, che mi sembrava giusta come data, visto che è quella dell'elezione di Trump. Siete quasi allineati su questo. Tra l'altro ne approfitto anche per ringraziare particolarmente il Servizio Sanitario Nazionale, il nostro tanto vituperato Servizio Sanitario Nazionale. Che ha avuto un ruolo in questa vicenda? Assolutamente. Una racconta. Mattina disperatissimo dopo 30 anni di fumo, insomma 40-60 sigarette al giorno da quando ne avevo 15, insomma. Ho chiamato il numero verde del Ministero della Sanità. Sì? Mi hanno indirizzato a un ambulatorio di un ASL qua di Torino. Ho conosciuto una persona, faccio pubblicità spudoratamente, il dottor Barchi. Prego. Che mi ha seguito e mi ha fatto smettere di fumare. Ma è una storia bellissima, perché non si sente mai di qualcuno che addirittura, cioè disperato, chiama il Servizio Sanitario Nazionale. Voglio smettere, no, ma lo sto basta. Dicendo sul serio, è molto interessante, certo. Perché uno magari non sa da chi farsi aiutare e il numero più ovvio è quello del Servizio Sanitario, ma uno va a finire che non lo fa e magari va in mano a qualche santone che ti tocca l'orecchio. Però Giancarlo, a questo punto dici, come ha fatto il dottor, come si chiama, Barchi, ti ha legato le mani dietro la schiena? Che metodo ha usato? Allora, si fa un colloquio con uno psicologo e un colloquio con un medico, generalmente uno pneumologo. Mm-hmm. Loro non sono preclusi a niente. Anche, vabbè, io sono arrivato, il dottore si è messo a ridere, ha detto: guarda, la dipendenza da fumo noi la facciamo nei momenti, insomma, di relax, perché loro hanno tutte le dipendenze, certo, cose anche più gravi, ben più gravi dal punto di vista, insomma. Quindi per loro diciamo una passeggiata, però hanno affrontato il discorso dicendo: noi non precludiamo niente, agopuntura, ipnosi, qualunque cosa, schiaffi forti per farti smettere, tutto. E alla fine si è risolta con una dipendenza molto forte, però ero anche altrettanto convinto. Lo psicologo ha detto: guarda, facciamo una piccola terapia farmacologica che avrebbe dovuto durare per 4 mesi, invece è durata 1 mese. E poi, insomma, e poi ho smesso. Le cose si sono messe per il verso giusto. Va bene. Molto e basta. Insomma, bravo Giancarlo, complimenti. Complimenti veramente. Ti iscriviamo oggi al nostro concorso i comportamenti di cui Veronese sarebbe orgoglioso di noi. I comportamenti veronesi. A tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Make a better place with my own two hands. Make a kinder place. Oh, with my own two hands. With my own two hands. Allora, oltre che grazie agli aiuti che arrivano dal governo, ma anche dalla solidarietà della nazione, le popolazioni colpite dal terremoto stanno cercando di risollevarsi con le loro stesse mani, come diceva Ben Harper in questa bellissima canzone che, insomma, ci torna a trovarci. Segnatevi questo hashtag per ora, Daje Marche, perché adesso è un hashtag, una pagina Facebook, ma presto sarà anche un sito. E salutiamo Paolo Isabettini, architetto di Tolentino, ideatore di questa iniziativa. Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Daje con la I con la Illum, proprio Daia, la Roma. Daia Marche, Daia Marche, perché Daia Marche? Perché partite da questa questione che insomma tante volte abbiamo incontrato, cioè non solo problemi per le popolazioni, ma anche per le aziende, no? A vendere i prodotti che rimangono lì nei magazzini che a volte non sono più neanche praticabili, e da lì siete partiti voi. Esattamente, siamo partiti da questa grandissima esigenza di tutto il panorama produttivo marchigiano, che è molto variegato. La maggior parte dei prodotti che magari consumate proviene proprio da qui. E quindi abbiamo deciso di incitarli con questo Daglie a ricominciare, perché c'è un'esigenza vera al di fuori di quella abitativa di rimettersi subito in piedi a livello economico. E in previsione del Natale e degli acquisti natalizi, tanti produttori agricoli, tanti commercianti, tante aziende avevano amplificato, comunque prodotto molti più beni che ora sono nei loro magazzini, spesso anche inagibili. Ecco, ma in pratica è un sito di e-commerce con tutti i prodotti locali della zona, quindi dove ci si trova di tutto. Esattamente, sì. Stiamo cercando di costruire questo tipo di piattaforma che sia completa, che non punti soltanto all'enogastronomico, ma che abbia tutta una vasta gamma di prodotti. E possa aiutare un po' tutte le... Adesso io dico subito, se andate e cercate Daia Marche, al momento trovate il sito in allestimento, però segnatevelo il nome del sito, perché presto, tra quanti giorni, Paolo, pensi che potrà essere operativo il sito? Speriamo io prestissimo. Spero che in un paio di giorni riuscirete a vedere i primi prodotti, li stiamo fotografando adesso, infatti ora sono al container, che è il nostro quartier generale, circondato da tantissimi tipi di prodotti. Raccontaci un prodotto, raccontaci la prima foto del primo prodotto. La prima foto del primo prodotto è un cesto dove dentro ci stanno tantissime prelibatezze marchigiane, quindi c'è la pasta di Camerino, una vernaccia che è un vino frizzante rosso che non so se conoscete. Lo conosciamo, ma non lo beviamo mai prima delle 10 del mattino. No, perfetto. Il ciauscolo anche lo conosciamo ed è buonissimo. E ci sono delle lenticchie, delle birre artigianali, il pane nociato che è un tipico dolce, ecco, marchigiano. Mi raccomando, le lenticchie, perché quelle fanno bene. Veronesi sarebbe contento, sì, perché già il ciauscolo, il vino rosso, non esageriamo. Io stavo aspettando il panettone nel cesto di Natale, invece temo che non ci sarà. No, è giusto. C'è qualcuno che comunque l'ha messo il panettone, sempre artigianale, sempre fatto in una maniera tipica. Ho qui di fronte, ad esempio, un panettone al tartufo. Un panettone al tartufo? Sì, sì, lo voglio aprire da ieri, guarda. Ma è tipo un panettone gastronomico, suppongo? O al tartufo, sì, invece delle uvette? Sì, no, non lo so in realtà, è piccolino, è un panettone al tartufo, lo troverete nel cesto, no? Perfetto, giusto così, chi vuole il panettone al tartufo vada sul sito Daia Marche e compra, allora, il cesto di Natale. Voi fate base a Tolentino, no? Questo si, sì, può dire, Tolentino, sì. Però vi ponete come raccordo un po' per tutte le marche. Al momento, appunto, ripetiamolo, siete una pagina Facebook, si può già interagire con voi. Presto ci sarà il sito che avete, diciamo, ribattezzato l'Amazon de Noantri, giusto per... Sì, sì. Per rimanere un po' in tema anche dialettale, e noi vi facciamo un grande in bocca al lupo naturalmente per questa iniziativa, Paolo, perché, sì, grazie mille, grazie, insomma, il lupo, siamo con voi, e diciamo anche, ringraziamo anche tutti i volontari, perché è tutta una cosa che è nata su base volontaria al momento. Ho sì, letto da qualche, sì, parte che ci sono 160 persone che già stanno collaborando. Siamo diventati di più in realtà. Ma che tra l'altro mi sembra un dato fondamentale questo, perché oltre alla questione economica, giustamente, per vendere i prodotti, è anche una questione sociale di mettersi tutti insieme e fare una cosa tutti insieme. Assolutamente, cioè si sta sviluppando un grandissimo spirito di solidarietà, quindi al di fuori del successo che già sta avendo questa pagina Facebook, abbiamo già i primi ordini che ci arrivano via mail o via Facebook, e ancora non siamo online. E però sta già contribuendo anche a ridare morale, questo abbiamo capito, alle persone. Grazie Paolo Giabettini, dobbiamo chiudere. Grazie, dobbiamo mille, fermarci. Daia Marche. Daia Marche, dai. Per ora è un hashtag, una pagina Facebook, presto sarà anche un sito. 800 24 00 24. Noi ci risentiamo dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Smart ways to live. So many smart ways to live. Smart ways to live. So many smart ways to live. Help an old lady cross the street. Give the homeless something to eat. Give a stranger a compliment. Leave a note when you accidentally make a dent. Smart ways to live. So many smart ways to live. Smart ways to live. So many smart ways to live. Turn off your phone at the movies and table. Thank God we'll be healthy and able. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Ben ritrovati cari ascoltatori, vi aspettiamo all'800 24 00 24 per stare con noi. Noi che questa settimana, che se n'è andato il grande Umberto Veronesi, medico, scienziato, divulgatore, soprattutto una grande personalità italiana, Smart Way to Lives, chi meglio di lui poteva darci indicazioni su modi intelligenti di vivere. E vogliamo ricordare Veronesi con Eliana Liotta. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Ben ritrovata Eliana, lei è una giornalista, lo sapete, autrice di La dieta smart food, e poi adesso Le ricette smart food, sono libri di divulgazione, perché Eliana è una giornalista, ma fatti in collaborazione con lo IEO di Veronesi. Intanto voglio chiederti, Eliana, partiamo dal saluto che Milano ha dato a Veronesi. È stato all'altezza di questa importantissima figura, di questa grande personalità? Secondo te tu c'eri? Io ero lì, ho potuto abbracciare i familiari, abbracciare gli amici di una vita, del professore, e ho visto anche l'abbraccio della città. È stato veramente commovente. Intanto il discorso del sindaco Beppe Sala, lui ha raccontato la vita del professore e alla fine si è commosso. Certo, Sala che è stato curato anche da Veronesi, no? Nel senso che Veronesi gli ha dato delle indicazioni sulle cure e degli insegnamenti su come affrontare la malattia, dicendo che la malattia non è qualcosa di estraneo a noi, quando purtroppo dovesse capitarci, ma è un compagno. Questa era la grande cosa, no, che aveva Veronesi rispetto alla medicina tradizionale. Adesso lui sicuramente non era l'unico. L'umanità è una dote che hanno moltissimi medici. Lui però l'ha resa sistema, poi è diventato popolare. Questa cosa di dirti che la malattia è guaribile, la puoi sconfiggere, ci puoi convivere, mi viene da fare... Era un medico della persona. Lui non si limitava a visitare un paziente. Lui ascoltava il paziente, chiacchierava con le donne e amava molto le donne, perché il professore era un grande scienziato, era un chirurgo, amava la ricerca, ma era anche un filosofo. Questo è un concetto che passa poco, però era una persona con cui ogni volta che parlavi eri obbligato a farti delle riflessioni, perché ogni volta ti dava degli input nuovi. E questo non è comune tra i medici. A proposito dell'eredità di Veronesi, perché noi stamattina chiediamo agli ascoltatori di chiamarci all'800 24 00 24 per raccontarci quelle piccole svolte nella loro vita che hanno impresso e di cui orgoglioso Veronesi sarebbe orgoglioso, no? Da smettere di fumare a mangiare meno, meglio. C'è un ascoltatore che dice: il 27 novembre sono 2 anni che ho smesso di fumare, 50-60 sigarette al giorno, oppure niente carboidrati, niente latticini, poca frutta e camminare. Ho 66 anni, dopo questo stile di vita mi sento rinata. Anna da Pisa. C'è un ascoltatore però che è un po' critico, ma in maniera simpatica, dice: non compro più OGM ed ho spento il mio reattore nucleare a casa in favore di un tetto fotovoltaico. Veronesi, nuclearista e pro OGM, stanotte in visione mi ha detto che ha cambiato idea ed è contento di me. Luca da Catania, che non apprezzava questi, diciamo, aspetti della personalità di Veronesi, che era forse anche un futurista, uno scienziato, comunque un positivista, guardava sempre in avanti, quindi era positivo anche su questo genere di novità. Ma in realtà la cosa che ci lascia in eredità, io credo, più importante, Eliana, diccelo tu, insomma, è l'importanza dello stile di vita, a cominciare dall'alimentazione. Una convinzione: mangiare troppo non fa bene. Questo sì. Intanto Veronesi, diciamo, devo dire, è un grande scienziato, quindi nel momento in cui diceva che gli OGM non erano il diavolo, era perché non ci sono ricerche scientifiche che ci invitino a eliminare, ad abolire gli OGM dalla faccia della terra. Quindi questo devo dirlo in risposta alla, insomma, pur simpatica, a Luca, se vogliamo, nota di Luca. Ecco. Dopodiché Veronesi si è sempre molto molto interessato anche all'alimentazione. Lui in particolare ha scritto un libro che si chiama La dieta del digiuno, sì, e in cui invita ogni tanto a digiunare. Lui saltava spessissimo il pranzo, quasi non mangiava, era una sua abitudine, però io sono stata spesso ai non pranzi, come i non compleanni di Alice delle Meraviglie, quindi ai non pranzi, cioè Veronesi ti invitava al non pranzo, andiamo a non pranzare a insieme pranzo. Beh, comodo però, se posso dire, è comodo, è come filosofia. Ti offro un non pranzo, glielo offro anch'io, signora Liotta. Anche una non cena, una non cosa faceva, però il non pranzo è molto divertente. Lui allora aveva per esempio un caffè e un pezzettino di cioccolatino fondente. Questo era tipico del prof. Quindi la sua idea è che ogni tanto bisogna digiunare. E devo dire che questo, scusa, questo contravverte la classica regola della nonna: mangia che devi studiare. No, cioè lui mi sembra uno che il cervello lo utilizzasse molto, e però se la cavava con un cioccolatino e un caffè a pranzo. Beh, sì. È vero, no. Però c'è anche lì un motivo scientifico. Si è scoperto, ne parlo poi anche nei miei libri diffusamente, che abbiamo dei geni dell'invecchiamento e dei geni della longevità. Altro non sono in verità che geni che regolano il metabolismo. Quelli dell'invecchiamento si attivano quando mangiamo moltissimo, quelli della longevità quando invece digiuniamo o mangiamo poco. Quindi il prof aveva ragione, lui lo teorizzava già tanto tempo fa, prima ancora che si arrivasse a questo tipo di scoperte, però in verità c'è un fondamento anche in questo. Cioè, quindi a furia di non mangiare uno potrebbe morire giovanissimo, però. Ma appunto, ma quindi il digiuno, detto ciò, è una cosa che va maneggiata con estrema cautela. Non tutti possono digiunare, questo devo dirlo. Non i bambini, non gli anziani, non le persone che... Sì, perché adesso il digiuno va molto di moda. E quindi se... Ma intanto, esatto, bisogna dare dei limiti. Ma è per questo forse che il sottotitolo del suo libro, Le ricette smart food, è 100 piatti con i cibi intelligenti che mimano il digiuno. Cosa è significa? Vero. Ci sono dei cibi, si è scoperto, che possiedono molecole in grado di imbavagliare, diciamo così, i geni dell'invecchiamento e di dare invece una svegliata ai geni della longevità. Mangiamo ed è come se non mangiassimo. Queste molecole hanno come delle... Che è il sogno di tutti, diciamo, mi scusi, così. È il sogno di tutti proprio. Mangiamo, ma è come se non mangiassimo. Esatto, qualcuno ha detto è una trovata di marketing, poteva esserlo, però in realtà si è visto in laboratorio che queste molecole hanno come delle dita, delle zampette, che vanno a spegnere on e off questi geni. Si tratta di esperimenti di laboratorio, di esperimenti su modelli animali, però... sono molto molto molto interessanti, allora vale la pena provarli. Adesso Eliana Liotta, poi se... anche dei pasti proprio, certo, uno ipocalorici, sì, con... adesso ci fai qualche esempio tratto dal tuo libro su qualche ricetta. Scendiamo un po' dal pero, perché a volte quando sentiamo queste ricette rimaniamo basiti, perché prendete un po' di curcuma, un po' di zenzero del Madagascar, cioè cose che sono irrealizzabili. Invece tu cerchi proprio di fare una cosa fattibile per tutti. Quindi tra poco, dopo il traffico, torniamo con le ricette smart. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Si può fare Cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua, di nuovo ben ritrovati da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. Cari ascoltatori, vi aspettiamo all'800 24 00 24 con Eliana Liotta. Eliana, allora, intanto ascoltatori scatenati, c'è chi scrive su WhatsApp 349 238 6666. Noi esageriamo, mangiare un cioccolatino e un caffè a pranzo non mi sembra proprio un comportamento corretto. Penso meglio digiunare a cena che a pranzo. Allora, intanto, beh, Veronesi faceva come quello che gli pareva questo. A lui, è arrivato a 90 anni e quindi... No, in realtà non c'è una regola sì. che ti dica che bisogna digiunare a pranzo o a cena, si sa molto poco sì. sul digiuno, quindi non sappiamo se... Però tu, voi cosa consigliate alla fine? Digiunare una volta alla settimana, una volta al mese, digiunare, saltare un pasto, cioè allora, qual è il consiglio che si può dare? Sono sperimentazioni che ognuno, se vuole, può fare su se stessi, non oltre un giorno alla settimana. Mai se non si sta bene, mai se si sono avuti dei problemi come i disordini alimentari, per esempio. Perché poi c'è un rischio di caduta, no? Tra l'altro. Perché se io salto, io qualche volta ci ho provato a fare questo digiuno, anche proprio perché mi andava magari lì per lì. Io salto la merenda. Esatto. Poi lui salta la merenda. Una volta all'anno. Poi arrivi a cena, hai una fame terribile, mangi il doppio. Questo neanche va bene, così non si può fare, no? No, infatti, ognuno deve regolarsi. Ci sono, per esempio, persone che diventano molto irritabili se non mangiano, altre invece che quando non mangiano hanno al contrario un senso di euforia. C'è anche cercato di capire perché questa euforia, probabilmente perché in assenza per il risparmio di avere una carica, anche una carica che consenta di andare a cercarsi. Sono i geni della longevità che dicevi prima, quelli che ci ringiovaniscono, si scatenano. DNA dei giovani preistorici, quando insomma il cibo si aveva solo se si cacciava un antilope, insomma, questo sia chiaro. Dopodiché la cena, è vero che il corpo, diciamo, comincia ad addormentarsi quando il sole tramonta, e quindi è vero che è meglio mangiare meno a cena, però è anche vero che la cena è un momento conviviale, di solito. E quindi ha un valore anche sociale da questo punto di vista. Quindi ha un valore sociale, noi non dobbiamo solo pensare di aggiungere anni alla vita, ma di aggiungere vita agli anni, altrimenti che senso ha? Che bella questa, che bella, questa te l'hai ripreparata. Io invece mi ero preparato questa domanda. Dacci qualche assaggio delle ricette smart food. Nel senso che diamo proprio anche l'indirizzo e vorremmo degli assaggi qui. Allora, facciamo un dolce particolare, però mi piace moltissimo, che è un brownie con cacao, nocciole e fagioli neri. È buonissimo perché i fagioli non si sentono. Come si chiama questo dolce? Scusa perché ho perso la parola. Brownie. Un dolce brownie. Il brownie, quelli che io di solito mangio solo al cioccolato. Di torta. Esatto. Esatto. E questi vengono fatti invece che con la farina. Sì. Con i fagioli neri. Non è adatta ai celiaci, con i fagioli neri. Ma che meraviglia. Sia il cacao sia i fagioli neri possiedono delle molecole della longevità. Quelle dei fagioli neri si chiamano antocianine. Sì. E sono le stesse molecole che ci sono per esempio nei mirtilli, nel radicchio rosso, nel cavolo capuccio. Ma devo fare una domanda perché dopo so che vengo assalito dai dubbi. Ma qualunque fagiolo nero, oppure bisogna prendere solo quelli bio fatti? Nel senso che se io vado in un supermercato, compro dei fagioli neri, poi posso dire che vivo una settimana in più. più o meno. Io sai, questo è un libro che ho scritto con l'approvazione dello IEO, dell'Istituto Europeo di Oncologia, quindi i miracoli non sono previsti. Giusto. Sono previste delle potenzialità, delle possibilità, e comunque tra i tanti fatti e miti raccontati nel primo libro, La dieta smart food, c'è un passaggio che riguarda proprio il bio e l'agricoltura convenzionale. Perfetto. Non c'è prova scientifica che i cibi biologici passano alla salute meglio di quanto cerchiamo di togliere di mezzo un po' di porcherie chimiche, quindi, eccetera. Però scusami, toglimi una curiosità su questi fagioli neri, no? Perché neri? Gli altri fagioli sono brutti? No, guarda, allora puoi fare questo dolce anche con i fagioli cannellini. L'indicazione è dei fagioli neri, perché così è l'originale ricetta americana rivisitata, sì, e perché i fagioli neri hanno in più le antocianine, detto ciò, okay. Ma quindi scusa, poi assomigliano di... del barattolo. Adesso mi sto entrando in fissa con questo dolce fatto con cioccolato, nocciole e fagioli neri. E basta, non c'è nient'altro? Eh no, c'è un po' di olio. Ah, qualcos'altro c'è, insomma, dai, se no mi sembrava uno strano miracolo della natura. No, qual è l'alimento? Però una volta hanno sbagliato, non hanno messo l'olio quando l'ho sperimentato ed era buono lo stesso. Era buono lo stesso. Vabbè. Senti, qual è l'alimento? C'è un alimento più sano, l'alimento più sano di tutti? C'è uno che proprio mangia a tonnellate perché fa benissimo? No, il cavolo rosa, non lo so. No, allora non è l'unico super cibo, sì. Bisogna mischiare i cibi e ci sono delle categorie di alimenti da privilegiare, per esempio i legumi, per esempio i cereali integrali, tutta la frutta fresca, tutta la verdura fresca, questo più o meno lo sappiamo, però... però io me lo segno comunque. I longevi di Smart Food, che sono questi cibi mima digiuno, chiamiamolo così, con delle molecole che vanno a sollecitare, stando agli studi all'avanguardia di nutrigenomica, vanno a sollecitare dei tratti di DNA. E questi sono, diciamone... Ma per esempio le arance rosse? Sì. Esempio, Carlo sta prendendo rosse, appunti, io prendo appunti. No, perché sai, la mattina parlare di cibo mi viene un po' male. Ma noi benissimo, ma noi siamo svegli da tre ore, molto presto, allora, siamo affamati. Rosse, poi i cachi. I cachi non mi piacciono molto, devo dire. Poi allappano, allora, e poi sono scomodi. Sì, no, moltissimo. I capperi da mettere, per esempio, nei sughi. Moltissimo. Asparagi, capperi, arance rosse, siamo perfetti. Poi, come il nostro prof faceva, il nostro Roberto Veronesi, bisognerebbe... concedersi, se piace, il cioccolato, purché fondente. Chiudiamo con questa nota di dolcezza, felice. E rilassiamoci con un pezzo di cioccolato. Grazie, fondente, Diana, fondente. Un grande abbraccio, grazie per essere stata con grazie noi. Grazie mille. Buona colazione. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è A Head Full of Dreams dei Coldplay, canzone che ci è stata suggerita da Benedetta da Milano, che dice: dato che non possiamo andarli a sentire a San Siro perché non si trovano i biglietti, almeno fateceli sentire voi i Coldplay. E si riallaccia a quello di cui abbiamo parlato stamattina, del problema dei biglietti che vengono rivenduti per poi essere rivenduti con un prezzo decuplicato. Vi ricordiamo che noi siamo sempre in cerca di dei Si può fare in musica, quindi se siete dei musicisti, dei cantanti, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori e trovate una canzone che racchiude secondo voi bene il concetto di Si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, noi la faremo sentire e la metteremo su il nostro sito. Potete inviarci i vostri Si può fare in musica alla mail sipuofare@radio24.it oppure sui nostri profili Facebook sipuofare_radio24 o Twitter @sipuofare24 oppure anche sui nostri account personali, il mio è @carlogabardini e il mio è chiocciola Ale Maurizi. Allora c'è un ascoltatore che scrive: dunque, sono vegetariano da 25 anni, mangio tutto quello che dice la vostra ospite, ma sono mezzo distrutto, non ho capito bene perché. Probabilmente sarai mezzo distrutto, Tony, forse per altri motivi, o forse perché magari hai preso troppo alla lettera queste diete. Poi però è interessante, il punto è interessante. Ha detto chiaramente che non ci sono cose salvifiche, che sono consigli, che bisogna usarli con intelligenza, poi ognuno deve adattarseli per conto suo. E poi Veronesi era vegetariano, ma non ha mai detto, non ha mai demonizzato chi non lo era. E mi pare pure che Liana Liotta, da questo punto di vista, non sia una fanatica, dalla sua prefazione c'è una frase bellissima che le avrei voluto chiedere, che dice: chi ha detto che per mangiare sano si debba mangiare male? Ecco, questo mi sembra. Allora, se riesco ad aprire la videata. Sì, Luca dalla provincia di Cremona, buongiorno e benvenuto Luca. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prego. Ma volevo riallacciarmi al discorso dei biglietti. Non credo sia difficile lavorare sulla tracciabilità dei biglietti. Ci sono aziende che commerciano in prodotti di elettronica di bassissimo valore, 10-12 euro con margini molto ridotti, 1-2 euro, che dal numero di serie del prodotto riescono a risalire a tutta la catena, la filiera, chi l'ha venduto, chi l'ha rivenduto. Quindi si potrebbe capire che percorso ha fatto il biglietto. Beh, infatti è esattamente quello che abbiamo chiesto a Massimiliano Dona, il segretario generale dell'Unione Nazionale Consumatori, e lui stesso diceva, essendo sul digitale dovrebbe essere tutto tracciabile. Infatti gli chiedevamo come mai non si riesce a capire chi becca i soldi. Esatto, forse c'è qualche volontà. Ma comunque l'hai detto tu, ma lo intendevamo anche noi. C'è sono due inchieste alla magistratura, c'è un ricorso all'antitrust e qualcosa verremo a capo. Grazie Luca, e io ricordo agli ascoltatori, anche a Luca se vuole, o comunque partecipare come giurato tra poco a Cloud Me Up, chiediamo agli ascoltatori di dare un giudizio sui progetti che chiedono il vostro aiuto per un finanziamento dal basso. Stefano da Milano, buongiorno, benvenuto. Stefano? Pronto, sì, buongiorno. Eccolo. Buongiorno. Eccomi, scusate. Su cosa volevi intervenire, Stefano? Sì, praticamente io volevo dire che cosa io ho iniziato a fare per appunto prendere delle buone abitudini. Per migliorare la tua vita, vai. Sì, per migliorare la mia vita. Ho deciso praticamente di diventare un collezionista di buone abitudini, no? Quindi, le fai tutte, cioè le provi tutte? Tipo? Sì, io... Bravo, io le provo tutte e poi quelle che mi piacciono e che mi servono me le tengo, le altre eventualmente le abbandono. Quindi sei più uno sperimentatore che un collezionista, interessante, vai. Sì, io inizio appunto a sperimentare e poi mi colleziono e tengo quello che mi interessa. Ad esempio, ho iniziato a fare dello sport, io sono 3 anni. Che non dico regolarmente, però almeno una volta alla settimana devo fare dello sport, mi faccio la mia bella corsa di 5-10 km, sì. In maniera sempre costante, alla mattina prendo, esco molto presto, specie al sabato e la domenica, e mi faccio la mia bella corsa. Ma gli scacchi sono uno sport? Assolutamente no. Ah, va bene. Quello che serve praticamente a far pompare il sangue, sì. A far girare, praticamente ossigenare il cervello. Vabbè, perché... Stefano, però adesso non mi fare il medico dello sport, va benissimo. Anzi, noi prendiamo la tua cosa alla lettera e ti iscriviamo al concorso, però dici almeno una buona abitudine che hai smesso perché non era buona per te. Allora, quello che ho smesso, ad esempio, ho smesso di mangiare una quantità industriale di salumi, ho smesso No, però questa non è una buona abitudine. Tu hai detto che provi tante buone abitudini, alcune le tieni, alcune le molli. Io ti ho chiesto una di quelle che hai mollato, mangiare salumi, ottima. Non lo metterei tra le buone abitudini. Io allora vi dico quella che sto sperimentando adesso, che sto cercando di tenere perché è la più difficile. Sì. E praticamente bere la mattina appena svegliato in un bicchiere d'acqua un limone. Un cucchiaio, no, quello già lo faccio, un cucchiaio fa di aceto lui. Di mele. Aceto di mele. Ma così ti rovini la vita. Cosa ci fa cucchiaio di aceto dell'acqua la mattina? A parte che a me acqua aceto piace moltissimo, quindi. Ma cosa fa? Ma perché? A cosa serve? Adesso sentiamo Stefano. Allora, sinceramente, adesso non ricordo i benefici. Non lo sai, è fantastico. Cioè, lo fai senza sapere perché, ma tu io sei no, testimonial allora, delle buone abitudini perché tu lo fai a prescindere. È bellissimo. Io faccio prima la ricerca di quello che mi interessa, no? Ad esempio, ho inserito la cucuma, la cannella, i cereali, i legumi, la verdura. La cucuma sarebbe la curcuma. La curcuma, scusami. Ma mangi come un pazzo, perché se devi mangiare tutto quello che consigliano, alla fine della giornata hai mangiato 720 kg di... No, ma attenzione, io alterno, non posso spararmi tutta questa roba in una certa. Certo. Io starei con te al telefono tutta la mattina. Ci però... segniamo il tuo numero, quando abbiamo dei dubbi su una pratica ti chiamiamo. Ti chiamiamo. In realtà Stefano, se vuoi, d'accordo, puoi rimanere in linea con noi per fare il giurato a Cloud Me Up tra poco. Abbiamo il tempo di fare un altro ascoltatore? Lo facciamo? Isabella, la vogliamo fare? Sì, Isabella da Napoli. Pronto? Pronto. Vai Isabella. Eccomi, ci sono, buongiorno a tutti. Buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Isabella? Sì, io volevo fare soprattutto una domanda, ma è un problema che mi pongo anch'io, penso sia importante anche per tutti gli altri. Da che età il professor Veronesi ha cominciato a praticare questo regime alimentare? Perché per gli adolescenti, soprattutto per le ragazze che crescono e per chi svolge una vita particolare, diversa da persone che hanno, non è adatto, non è adatto, è giusto. Bisogna insomma fare un po' delle scelte e misurarla. No, ma infatti Eliana Liotta è stata molto precisa in questo senso, ha detto il digiuno mai più di una volta alla settimana e mai in presenza di problemi alimentari, malattie, bambini, qualcuno che ha delle debolezze su altri piani, quindi assolutamente, come sta dicendo lei, è molto giusto. Non si sta consigliando il digiuno alle quindicenni che vogliono dimagrire. Ora, l'età in cui Veronesi ha cominciato a farlo non la sappiamo, è l'età in cui eventualmente può aver smesso, vista l'età che avanzava, ma lo chiederemo a Eliana Liotta la prossima volta che la sentiremo. Cosa facciamo? Ci abbiamo il crowdfund, mi fanno segno di stringere. Crowd me up, vai! Si può fare. Cronache da un paese migliore. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. E allora, anche questa settimana siamo andati a cercare due progetti sulla piattaforma di Apple, due progetti che chiedono il vostro aiuto, cari ascoltatori, per un finanziamento dal basso, come è nella logica del crowdfunding. Sono due iniziative sociali, tutte e due, molto diverse tra loro, ma molto molto importanti. E quindi restate con noi. Intanto io ringrazio anche gli ascoltatori che fanno da giurati anche oggi per dire la loro. Stefano da Milano, Isabella da Napoli, che l'abbiamo già sentiti, e c'è anche Mariangela da Perugia. Mariangela, buongiorno, grazie anche a te per fare da giurata. Buongiorno, mi sentite? Sì, benissimo. Chiaro, benissimo. Allora d'accordo fare da giurato, però io sì, volevo un praticamente... attimo, Mariangela, sì? dobbiamo andare per ordine, andiamo con calma. Resta concentrata soprattutto, te e gli altri giurati, perché andiamo, bravo, partiamo con la base, andiamo a presentare i due progetti. Il primo si chiama Facciamo la festa alla mafia. È un progetto del Consorzio Sistema Imprese Sociali per trasformare un'area incolta, confiscata alla criminalità organizzata, in un giardino accogliente, aperto a tutti. Un luogo dal grande valore simbolico dove organizzare laboratori, feste, animazioni, concerti ed eventi culturali. Per realizzare questo sogno servono 49.000 euro. Il portavoce del progetto è Matteo Avalli del Consorzio Sistema Imprese Sociali. Buongiorno. Buongiorno Matteo. A tutti. Buongiorno. Allora, ti diamo un minuto, poco più, per raccontarci e convincerci perché dovremmo sostenere questo progetto. Facciamo la festa alla mafia. Allora, niente, si tratta di un progetto di crowdfunding civico del Comune di Milano, impostato su una piattaforma estera. Lo scopo è quello, appunto, come avete detto, di raggiungere i 49.000 euro entro 50 giorni. Se li raggiungiamo, il Comune ne mette altri 49.000 per sostenere il progetto. L'iniziativa è partita il 31 ottobre e terminerà il 15 dicembre. Facciamo una festa alla mafia, appunto, l'obiettivo di trasformare il giardino, la parte strutturale in un giardino accogliente di Casa Chiaravalle, che è il bene più grande confiscato alla mafia. Vogliamo realizzare appunto un'area interna che possa diventare uno scambio tra la popolazione locale e le persone che poi verranno accolte all'interno delle case ubicate intorno al giardino, attraverso attività laboratoriali, feste, animazioni e concerti. Importante è il link diretto che la piattaforma ha con Oxway, che è una piattaforma di partecipazione di idee, dove la gente, oltre a donare soldi, può anche donare idee. L'evento verrà presentato, in questo caso sulla piattaforma Oxfam, il 19 in concomitanza con l'evento di presentazione del progetto. Ecco qua, sei stato anche abbastanza nei tempi, Matteo. Bene. Questo era facciamo la festa alla mafia, ma dov'è il luogo? Dov'è questo luogo? A Chiaravalle, abbiamo capito bene? A Chiaravalle, sì. Per i milanesi, Chiaravalle, senti, voi chiedete una cifra abbastanza importante, 49.000 euro, per fare che cosa esattamente all'interno di questo progetto chiedete allora, questi soldi? In poche parole, la struttura è ubicata di fronte proprio all'abbazia di Chiaravalle, si tratta di una struttura composta da una parte residenziale e da una parte di terreno agricolo. Il terreno agricolo, che è quello su cui poi andremo a investire questa cifra che mi auguro riusciremo a raccogliere, è di circa 1000 metri quadri. Lo scopo è di, oltre a predisporlo per la nostra iniziativa... In pochi secondi, Matteo, sì. Ok, velocemente, è quello di creare una struttura all'interno della quale le persone possono confluire dall'esterno all'interno e incontrare le persone che poi in progetti di accoglienza verranno ospitate all'interno proprio della parte residenziale. Quindi attrezzare il giardino. Va bene, dobbiamo dare la linea anche all'altro progetto importante. Cari giurati, restate concentrati perché adesso c'è il secondo progetto, si chiama Consapevolezza Ora. E nasce per sostenere il lavoro di un'associazione importante, segnatevi questo nome, Presenza Amica, che da anni sostiene i malati e le loro famiglie nel momento finale della loro esistenza, perché questa associazione vuole promuovere una serie di incontri e convegni per riflettere sul tema della morte senza timori e senza tabù. Per farlo punta a raccogliere 10.000 euro. Il portavoce del progetto è Furio Zucco, presidente dell'associazione Presenza Amica. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuto Furio. Grazie. Anche a te diamo un minuto, poco più, per raccontare, anche se in un minuto penso che sia veramente difficile, quello che fate, ma soprattutto perché chiedete questo finanziamento dal basso per fare questa serie di iniziative. Presenza Amica. Presenza Amica è da 25 anni un'associazione di volontariato che si occupa, come ha detto lei, di malati in fase avanzata e terminali di malattia, quelli che una volta venivano definiti con un crudo termine, i malati terminali. Dopo questa trasmissione che avete fatto su Veronesi, pochi sanno che il professor Veronesi si è battuto anche per questa consapevolezza nella fase finale della propria vita, è stata una caratteristica di tutta la sua vita. Ecco, noi ci siamo resi conto attraverso l'opera dei nostri volontari che in Italia la consapevolezza della fase finale della propria vita è una chimera e questo non è uguale in tutti i paesi e pensiamo che possa essere affrontata la fase finale attraverso una grande azione culturale e questa azione noi la stimoliamo, vogliamo stimolarla con questo progetto. Si tratterà di 5 incontri in giro per l'Italia, i primi 2 li abbiamo fatti con grande successo, uno a Bergamo e l'altro a Milano a Casa della Cultura. Pensiamo che questo faccia bene alla nostra società e che oltre alla speranza, la consapevolezza ora sia un problema importante perché noi dobbiamo essere padroni fino in fondo della nostra vita. Chiediamo. E insomma, questo ottime parole, se condivido molto. Furio Zucco vuol dire ancora in pochi secondi qualcosa sull'associazione che vuol portare in giro per l'Italia questo progetto di consapevolezza ora, Presenza Amica, giusto in 2 parole, siete radicati a Milano, vero? A Milano, nella zona nord-ovest, Garbagnate Milanese, c'è una zona diciamo della città metropolitana, lavoriamo appunto da 25 anni, facciamo un corso di formazione volontari, non siamo gli unici, ma vogliamo stimolare proprio per un'azione, certo, in cui il volontariato stimola un'azione culturale. Il grande, ecco, meraviglioso mondo del volontariato. Allora, andiamo con i nostri giurati, cominciamo con Stefano da Milano, voglio premettere che sono 2 progetti molto diversi ma entrambi abbastanza importanti. Stefano, quale dei 2 ti ha convinto di più? Sì, mi hanno convinto entrambi perché entrambi sono veramente veramente interessanti e purtroppo però bisogna fare una scelta. Sì. Io scelgo diciamo quello che definisco il cancro sociale, cioè il cancro che praticamente mina la nostra società, il nostro futuro, alla proiezione dei giovani, quindi voto per il primo progetto. La mafia, facciamo la festa alla mafia. Beh, votare per il primo progetto chiamandolo cancro, visto che il secondo si occupa di malati terminali, ci hai un po' confuso. Bravo. A un certo momento, ma va tutto bene. D'altra parte Stefano, d'altra parte Stefano è il collezionista di buone abitudini, quindi esatto, non poteva che essere così. Perfetto. Allora, Isabella da Napoli, anche te ben ritrovata. Lei è quella che è intervenuta prima, per gli ascoltatori lo dico, parlando di Veronesi. Isabella, quale dei due progetti? Allora, anche per me la scelta è ovviamente problematica, perché oggi avete messo due argomenti, tutti e due molto interessanti, sì. Però anch'io opto per il primo progetto, perché in questa maniera veramente si fa qualcosa di costruttivo contro la mafia, e rinunciare sarebbe proprio perdere due volte. Va bene. Perfetto. Bisogna fare così, secondo chiaro me. Il voto anche di Isabella, 2-0 per il momento. Naturalmente non si vince né si perde niente, però Mariangela da Perugia. Buongiorno ragazzi, io veramente ho chiamato per un altro problema, e che vi dico succintamente: dite sempre voi altri intervistatori, quando si parla di alimenti, che non si dovrebbero fare se ci sono dei grossi problemi a livello di salute. Ad esempio, consigliare le arance rosse al mattino a digiuno per una persona che soffre di esofagite, molte persone lo soffrono anche se non lo sanno. Vabbè, Mariangela, ma non è che abbiamo passiamo ai progetti adesso, ecco, d'accordo, bravo, andiamo ai progetti. Quale dei due ti ha convinto? Io invece voto per il progetto, quello lì, per l'informazione per i malati terminali, perché a Perugia abbiamo un ottimo centro che funziona molto bene e che aiuta non solo i malati ma anche le famiglie ad affrontare questo grosso problema. Questo è il futuro, purtroppo. Con la mafia ci sarà sempre un grosso punto interrogativo. Due progetti che, come avete capito, sono entrambi coinvolgenti e molto importanti. Al momento abbiamo questo risultato, per cui facciamo la festa alla mafia. Due, consapevolezza ora, un voto. Ma mi sembra un ottimo risultato. Mi sembra quasi un ex aequo, ma l'importante è che andiate sulla piattaforma di Apple, vi informiate, o anche sul sito di Radio 24, la pagina si può fare, e date una mano a entrambi questi progetti. Grazie a Furio Zucco di Presenza Amica e a Matteo Avalli del Consorzio Sistema Imprese Sociali per essere stati con noi. Traffico. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Appela. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Vorremmo tanto continuare ad ondeggiare sulle note di Last Friday Night di Katy Perry, ma è il momento di salutare il nostro prossimo ospite. Lei è Tiziana Sangalli, coordinatrice di 3 asili della cooperativa sociale Cometa. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Sentite che cosa accade il venerdì sera in 11, in alcune scuole materne, 11 dei comuni di Monza, Brianza, Lecco e Bergamo, scuole materne aperte per far andare i genitori a cena fuori. Che è una cosa che non accade più quando fai dei figli, perché dimenticatelo. No, non è vero, non è vero. Ci sono le babysitter, ci sono i nonni, però in questo caso c'è anche il servizio pubblico. Complimenti. Grazie, allora in realtà siamo degli asili nidi, quindi la fascia è quella dei bimbi più piccoli, 0-3 anni. Sì, no, quindi non scuole materne. Ah, allora. Io speravo di poter venire anch'io, mia mamma voleva mollare lì me, invece no, da 0 ai 3 anni. Questo avviene una volta al mese, un venerdì al mese, quindi è data questa possibilità. In realtà partecipano non solo i bimbi iscritti al nido, ma anche i relativi fratelli, altrimenti la coppia non si può andare, certo. Co- con un limite di età, eventuali... immagino che se il fratello ha 18 anni non credo che lo accogliete. Chiaramente no, anzi forse farà lui il babysitter. Bravo, magari lo ingaggiate come babysitter, sì. Esatto. Insomma, la notizia è bellissima, sono finalmente gli asili notturni, c'è cioè la possibilità di lasciare i bimbi all'asilo per 3 ore e dalle 19.30 alle, mi sembra, 22.30 andare al cinema, cena o anche starsene a casa a fare dell'altro. Esatto. No, una pizza veloce, un cinema in prima serata, perché oltre non si va, perché poi alle 22.30 bisogna essere lì pronti a ritirare il bambino. Comunque, complimenti. Stavi chiedendo di farlo più lungo, di farlo più a lungo, perché più effettivamente... Lungo, sì, effettivamente... Sì, sì, sì. Però è anche vero che questi bimbi hanno poi la necessità di andare a casa e dormire. Dormire, i nostri giù, genitori, certo, sono comunque soddisfatti, perché comunque 3 ore dicono che sono un gran sollievo. Avete avuto un'adesione, un'alta adesione a questa iniziativa? Sì, decisamente. E tra l'altro ritornano anche alcuni vecchi iscritti, col quale è rimasto anche un legame, quindi ogni tanto non sono solo gli iscritti del nido, ma anche... Certo, quelli qualche... che ci sono stati l'anno prima tornano. Esatto. Ah, questo molto bello, e molto bello. Le insegnanti, insomma, le educatrici, e il mercato del cinema ha avuto un balzo, almeno di venerdì. Quel venerdì lì è incredibile, sono tutti in giro. Ma aumenteranno altri venerdì o sarà sempre solo un venerdì al mese? Ma momentaneamente è un venerdì al mese, vedremo. Dobbiamo anche dire grazie alla disponibilità delle nostre educatrici. Dobbiamo chiudere, grazie anche per loro. Grazie. Noi ci risentiamo domani, cari ascoltatori. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudio Schiattone, Peter Bescapè in regia. Fammi solamente ricordare il titolo del libro di cui abbiamo parlato, Le ricette smart food di Eliana Liotta, edito da Rizzoli, perché ce lo chiedono via SMS. Giusto, a domani, ciao, buona giornata.